Alessandro Mela, che leggerà le notizie in una maniera che non potrete rifiutarvi. 24 mattino. E allora, cari ascoltatori, amici miei, oggi parleremo ancora di attualità internazionale, parleremo dell'italiano che è stato ucciso in Bangladesh, parleremo anche degli attacchi all'ISIS, ma torneremo anche sulla vicenda che vogliamo seguire del condannato a morte in Arabia Saudita, la mobilitazione che c'è, per la verità, molto in sordina in Italia. A parte l'Unità, nessun giornale per ora si è spinto a fare una campagna per cercare di fare pressioni diplomatiche o comunque pressioni sull'Arabia Saudita per questa condanna a morte di un 17enne che verrà crocifisso solo perché ha partecipato a una manifestazione anti-governo, ecco, anti-regime, bisognerebbe dire. Parleremo anche un po' di assenteismo negli ospedali italiani, in questo caso in provincia di Salerno, a Salerno, in un ospedale dove ci sono tantissimi accusati di assenteismo. Classica storia italiana, a volte, purtroppo. Ne parleremo più avanti, eh? Ora andiamo a leggere il giornale. In questo martedì 29 settembre, i titoli intanto, il Sole 24 Ore apre su Volkswagen, indagato l'ex CEO, cioè l'amministratore delegato. Il titolo crolla ancora in borsa. Mentre per il Corriere della Sera, così come altri giornali, c'è l'attualità internazionale in primo piano. Obama-Putin, vertice dopo il gelo, questo è il titolo del Corriere della Sera, così il Messaggero. Obama-Putin, scontro sulla Siria. Questo è il titolo anche del giorno. Siria, sfida Obama-Putin. E anche Repubblica. Obama-Putin, si tratta sulla Siria, cooperante italiano ucciso dall'ISIS. Mentre per il secolo XIX, italiano ucciso, la sfida ISIS, questo è il titolo di prima pagina. La Stampa, faccia a faccia Obama-Putin, intesa sui negoziati di pace. Ecco che allora gli altri titoli sono Avvenire, che titola sul Papa, tutti i muri crollano, Francesco, costruiamo ponti, no ai bombardamenti. Ma sul Papa vedremo, perché c'è la polemica tutta italiana tra lui e Marino. Prima gli altri titoli. Libero, hanno truccato i 7.30. L'Agenzia delle Entrate accusa i CAF irregolarità in una denuncia dei redditi su 10. La notizia che ieri era riportata al Sole 24 Ore, oggi è il titolo di apertura di Libero. Mentre il Fatto Quotidiano, Mattarella tiene lontano De Luca, la RAI vuol portarlo in tribunale. È la vicenda della denuncia di giornalismo camorristico molto dura da parte di De Luca nei confronti di Rai 3 e la risposta ovviamente della Rai. Il Papa licenzia Marino, questo addirittura titolo di prima pagina del giornale. Il Papa licenzia Marino, vabbè, non è proprio così, ma certo sono diventate un caso politico le dichiarazioni di Papa Francesco, che rispondendo a una domanda, e tra l'altro fanno notare alcuni giornali, lo fa notare Massimo Gramellini in prima pagina della Stampa, una domanda forse non casuale, qualcuno dice addirittura concordata, per dare modo al Papa di precisare in questa risposta. Beh, la risposta l'abbiamo sentita, è stata sicuramente non diplomatica, ecco, da parte di Papa Francesco, che ha detto col tono della voce deciso: io non ho invitato il sindaco di Roma a Filadelfia, chiaro? Ma soprattutto quella frase che tutti hanno fatto notare con una precisazione che certamente non è casuale da parte di un papa. Lui, cioè Marino, si professa cattolico ed è venuto spontaneamente, cioè neanche è cattolico, si professa cattolico, come dire, non lo conosco bene. E sapete che nell'anno del Giubileo, nell'anno in cui, come dire, l'amministrazione comunale di Roma e il Vaticano dovranno andare sicuramente d'accordo, ecco che tutto finisce in un calderone e in una polemica politica. Già c'erano le polemiche per il viaggio di Marino, figurarsi. Per cui per molti giornali, a parte Avvenire, passa in secondo piano il messaggio del Papa, che dice no ai muri per i migranti, no ai bombardamenti, e la polemica, perché siamo così un po' l'italietta, viene buttata tutta sul viaggio di Marino. Il Papa e il viaggio di Marino, negli Stati Uniti non l'ho invitato io. Così pagina 16 del Corriere della Sera. Anche per Repubblica, Marino scoppia un nuovo caso, e tra l'altro c'è il retroscena di Giovanna Vitale a pagina 12 a dire i dubbi sulle spese del viaggio pagate dal Campidoglio e dalla Temple University che avrebbe invitato Marino. Intanto Repubblica vuole informarsi su chi abbia pagato il viaggio a Marino e ai quattro collaboratori che sono andati con lui. Domande inutili e di bassissimo livello, taglia corto il portavoce di Palazzo Senatorio. Per il sindaco e la sua addetta stampa, il comune di Filadelfia ha fatto fronte a tutto, tranne che la notte pagata a New York da noi. Per il capo del cerimoniale Francesco Piazza e la sua assistente dottoressa Coniglio, ha invece provveduto il Campidoglio per quel che riguarda le spese. Versione invece corretta poi in serata: ha pagato la Temple University, non il comune di Filadelfia. Fine dei dettagli, anche perché per questioni di sicurezza tagliano corto gli uomini dello staff, non si può sapere. Ma, insomma, questione di sicurezza, sapere chi ha pagato un viaggio di un sindaco e del suo staff mi sembra quantomeno la scusa un po' azzardata. Comunque, scrive ancora Repubblica, sentite il titolo della conferenza, un titolo un po' bizzarro alla quale ha partecipato Marino: il trapianto, due punti, dalla chirurgia alla rianimazione della città eterna. C'è certamente un po' di ironia negli articoli che commentano l'ennesima performance dalla quale Marino dovrà risollevarsi un po' politicamente parlando. Io sarò ospite, ha detto Marino qualche giorno fa, e poi soprattutto vado a raccogliere fondi da magnati che mi devono dare fondi, milioni per il patrimonio architettonico, culturale, storico di Roma. Ora, su chi abbia incontrato per finanziare l'immenso patrimonio culturale di Roma c'è mistero, un altro mistero. Come scrivono sul Corriere della Sera Alessandro Capponi e Ernesto Medicucci, l'articolo è questo: il Mister X miliardario e l'Ateneo degli amici. Ecco i dubbi sulla trasferta, le promesse, la missione con tre persone al seguito. Non possiamo dire niente su chi è che vuole finanziare Roma. Roma dal punto di vista culturale, l'ultima volta che è uscito il nome abbiamo perso un finanziamento. Sta di fatto che chiosa questo articolo il Corriere della Sera così: ieri sul telefonino del premier Renzi arriva un SMS spedito da un fedelissimo romano. Su questo SMS c'è il file audio del Papa che dice: si professa cattolico Marino, e il commento dell'SMS è: game over. Questo è l'SMS che secondo il Corriere ha ricevuto Renzi da un fedelissimo di Roma. La voce del Papa che dice: Marino si professa cattolico, con la scritta, il commento: game over. Game over per Marino sindaco. Vabbè, anche questa è una storia che abbiamo visto e rivisto e rivisto. Ci sarà sicuramente la puntata numero 2344. Intanto Roma arranca invece per una questione molto più pratica. Forse i cittadini romani non sono preoccupati tanto su chi ha pagato il volo del sindaco, forse vorrebbero banalmente saperlo, ma sono ben più preoccupati per le ennesime ore di blocco della metro. Il crack infinito, racconta Sebastiano Messina su Repubblica, racconta una giornata dell'ennesima vicenda di ore di blocco di alcuni convogli della metro di Roma. L'assessore Esposito, tra l'altro, che, scrive Sebastiano Messina, ha il fato, la sorte, forse un destino beffardo, ha atteso che Stefano Esposito salisse sulla metropolitana per fare una ricognizione e poi bam, via il lunedì nero della linea A, un gran botto, il fumo, una forte puzza di bruciato, addio metro. La centrale ha premuto il grande pulsante rosso, treni fermi per 7 ore e tre quarti. Cosa diavolo sarà successo di così terribile per bloccare per 8 ore la metropolitana di una capitale? L'assessore ai trasporti Esposito prima twitta: odio il lunedì, si è staccata una controvolta della galleria a cui è ancorata la linea aerea. Poi aggiunge: mi riferiscono che si è staccato un pacco di batterie del treno che poi ha colpito il montante della calotta della galleria. Insomma, un disastro. A un certo punto sbotta anche: qui mi menano se mi riconoscono. L'assessore ai trasporti di Roma. D'altronde, per una capitale 8 ore di blocco, non male, non male. Mentre invece che sta succedendo nel rapporto tra il PD e Rai 3? Beh, dopo che le frasi di Renzi sui talk show che sono visti meno di Rambo, Oggi è martedì, tra l'altro, vedremo questa sera. Poi c'è De Luca che è andato giù pesantissimo contro Rai 3 dicendo fa giornalismo di stampo camorristico, fa camorrismo giornalistico. Questa è la frase di De Luca che abbiamo fatto ascoltare. Allora Fabrizio Roncone, a pagina 13 del Corriere della Sera, fa un viaggio per cercare di raccogliere un po' gli umori, le sensazioni all'interno di Rai 3. Il cortocircuito tra il PD e Rai 3. Basta. Forse non sanno chi ha vinto. Questa frase è dell'onorevole Anzaldi, che è un renziano di ferro, e dice meglio porta a porta. Sentite cosa dice il renziano Anzaldi. C'è un problema con Rai 3 e col TG3. Sì, è un problema grande, ufficiale. Purtroppo non hanno seguito il percorso del PD. Non si sono accorti che è stato eletto un nuovo segretario, Matteo Renzi, il quale poi è anche premier. Niente. Non se ne sono proprio accorti. E così il PD viene regolarmente maltrattato e l'attività del governo criticata come nemmeno ai tempi di Berlusconi. Al che Fabrizio Roncone dice: ma lei sta dicendo cose gravi, onorevole, le pare normale parlare così di una rete pubblica? Sto dicendo la verità. Del resto, guardi, è Vianello è il direttore di Rai 3, è Vianello che ha qualche difficoltà a percepire la realtà dei fatti, ascolti e trasmissioni fallimentari comprese. Non noi. Quando abbiamo chiamato in commissione il direttore di Rai 1 Giancarlo Leone, quello si è presentato pacato, dispiaciuto, collaborativo, mentre Vianello arriva e dice tutto bene, ok, si fa così, vi spiego io, un'arroganza. Insomma, così parla un onorevole, non c'è questione di difendere nessuno, ognuno si sa difendere da solo, ma un onorevole della Repubblica Italiana dice al TG3 non hanno capito chi ha vinto. Ecco, so se vi rendete conto, cari ascoltatori. Adeguarsi, schiena un po' più piegata, un po' di più, ecco così, va benissimo, ecco così. Così va bene, evidentemente. Allora... ma eccoci qui, eccoci l'articolo che ci fa tenere per il secondo giorno così consecutivo le mani sul volante. È l'intervista a quel pensionato che è stato colto in fallo perché faceva una vendemmia con 3 amici o 4 amici, e per questo, mentre tutti stavano raccogliendo un po' di uva, è arrivato l'ispettorato del lavoro e gli ha detto: qua c'è del lavoro in nero e dovete pagare 20.000 euro in tutto. Il pensionato sanzionato sulla stampa che ha tirato fuori il caso a pagina 23. Sono stufo, mollo tutto. La mia prima reazione è stata questa: voglio vedere ora cosa possono fare. Battista Battaglino, 63 anni, una giornata di vendemmia che rischia di costare cara, perché mentre tra i filari della sua vigna si trovano alcuni amici, arrivano gli ispettori del lavoro e sul verbale di primo accesso ispettivo annotano i nomi di chi raccoglie l'uva, l'elenco dei documenti e dicono alla fine 20.000 euro da pagare di multa. Sono amici che mi aiutano, io non ce la faccio da solo. E a sera, per ringraziarli, offro loro una cena, spiega il proprietario. Ma la legge è legge, nessuno ha il voucher previsto per chi è impegnato in vigna, e quindi multa. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. E sai che al mattino c'è Alino? C'è il mattino? Al mattino c'è Alino! Alino, quel da Radio 24! Eccoci qui. Allora, cari ascoltatori, benissimo. Vogliamo continuare nella lettura dei giornali e purtroppo dobbiamo raccontare dell'uccisione di un italiano, il cooperante Cesare Tavella in Bangladesh, 51 anni freddato a colpi di pistola, ma soprattutto poi è arrivata la rivendicazione, bisogna capire quanto attendibile, dell'ISIS, lo Stato Islamico, in rete ha rivendicato: abbiamo ucciso un crociato. Voi vi rendete conto? Un crociato. Invece, come racconta Repubblica con Paolo Brera, pagina 4, chi era Cesare Tavella? Era un cooperante che, della provincia di Ravenna, padre orgoglioso di una ragazza che, diceva lui, scriveva su Facebook: faccio il mio meglio per crescere come una persona completa, profonda, seria, con principi, rispettosa. Da pochi mesi era diventato il project manager di Proofs, un progetto quadriennale di aiuti per migliorare la sicurezza e il reddito delle famiglie, il cibo, le abitudini alimentari per le donne, neonati, bambini, l'igiene. la qualità dell'acqua e dei servizi igienici e la situazione di 80.000 famiglie di agricoltori in Bangladesh, un progetto su cui lavoravano 150 persone e ieri è stato freddato così alle 18.15 ora locale a Dhaka, la capitale del Bangladesh, mentre faceva jogging. Scrive Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera pagina 3: le fonti di intelligence italiane dicono la preoccupazione sale soprattutto per il giubileo a Roma, colpito perché cristiano. Questa è la rivendicazione dell'ISIS, colpito perché considerato un crociato. E allora, con il trascorrere delle ore, scrive Sarzanini, prende corpo l'ipotesi che l'uomo sia stato scelto proprio come bersaglio in quanto collaboratore di un organismo considerato cristiano, come tale in cima agli obiettivi da colpire stilata dai leader del califfato. Ecco perché tutto questo, scrive il Corriere ancora, spaventa in vista del giubileo. Accade spesso che di fronte ad azioni fondamentaliste compiute all'estero gli 007 abbiano difficoltà a ottenere ricostruzioni di quanto accaduto. Ieri la polizia locale ha parlato subito di rapina e solo dopo la notizia della rivendicazione ha corretto il tiro spiegando di non poter escludere altre piste. Certo, non c'è al 100% una sicurezza dell'attendibilità di questa rivendicazione, però anche Cristiana Mangani sul Messaggero racconta pagina 5 l'allarme inascoltato degli 007, avevano detto, soprattutto lo aveva detto il Foreign Office inglese, sul Bangladesh attaccheranno presto gli occidentali. In Bangladesh, si racconta sul Messaggero, ci sono già alcuni blogger laici che sono stati trucidati da una fazione chiamata fazione Ansarulullah Bangla Team. E pochi giorni fa lo stesso gruppo ha diffuso un elenco di obiettivi in tutto il mondo, scrittori, attivisti, figure della cultura. Una sortita certamente propagandistica che però ha cresciuto i timori su possibili nuovi attacchi in quel paese. E ora questo attentato e soprattutto la rivendicazione. In ogni caso, dal punto di vista internazionale, forse la notizia che è più importante ieri è il fatto che Putin e Obama si siano visti a quattro occhi. Certo, hanno approfittato della conferenza generale dell'ONU, ma erano anni che non si vedevano faccia a faccia, come racconta Mario Platero sul Sole 24 Ore a pagina 7. Putin e Obama divisi su Assad. Obama e Putin si sono finalmente incontrati ieri a Palazzo di Vetro, scrive Platero. Un incontro difficile, teso. Il primo dopo due anni di freddezza glaciale americana nei confronti di Mosca per la violazione dei diritti dei confini ucraini. Un incontro avvenuto dopo che entrambi avevano espresso letture diametralmente opposte delle origini e delle possibili soluzioni per la drammatica crisi siriana. Eppure, in questa situazione drammatica, con veti incrociati, il semplice fatto che questo incontro ci sia stato lascia immaginare che possa essere l'embrione per una soluzione allargata in tempi medi. Certo, sul piano formale, Obama è rimasto sulle sue posizioni pubbliche e irrinunciabili, ha chiesto l'immediata destituzione di Bashar Assad in Siria, un leader che ha colpito la sua stessa popolazione e fomentato la guerra civile. Putin invece ha definito Assad come l'unica speranza per contenere l'ISIS. Quindi una divisione, ma al di là delle dichiarazioni ufficiali, la diplomazia al lavoro, scrive Platero, e questo faccia a faccia rilancia, e infatti è il titolo di prima pagina per molti giornali, rilancia la speranza di una qualche sorta di intesa per fermare la crisi siriana. Tra l'altro, in questo anche Renzi ha parlato di strategia internazionale, come racconta pagina 6 del Corriere della Sera. Renzi, anche lui a New York per la conferenza dell'ONU in questi giorni, ebbene racconta come l'Italia stia puntando a un seggio tra i membri non permanenti dell'ONU. Per questo, ha promesso altri 400 italiani tra i caschi blu nelle missioni ONU in giro per il mondo. Renzi, che tra l'altro racconta Marco Galluzzo a pagina 6 a New York, ha anche visto alcuni esponenti del gotha finanziario come il potente Larry Fink, creatore del colosso BlackRock. Ha parlato con gli investitori, ha detto col solito entusiasmo che lo contraddistingue: sono rimasti tutti sorpresi perché in un anno abbiamo fatto il 90% delle riforme che avevamo promesso l'anno scorso quando ero venuto qui. Insomma, un Renzi che ha sparso entusiasmo e dice ancora siamo meglio della Germania. È un Renzi che porta avanti questa visione molto molto ottimista. Certo, invece, che succede sul fronte delle tasse? Sul fronte delle tasse dall'Unione Europea, ancora una volta, in vista della legge di stabilità, c'è questo richiamo a dire: guardate che noi preferiremmo, mettiamola così, sarebbe meglio da parte dell'Unione Europea che la smetteste di pensare di togliere le tasse sulla casa e invece dovreste tassare di più le case, come altre cose, e tassare meno il lavoro, visto che abbiamo una tassazione sul lavoro la più alta in Europa. Lavoro o casa, scontro governo Unione Europea sulle tasse. Questo è il titolo del Corriere a pagina 8. Tra l'altro, Mario Sensini, sempre sul Corriere, racconta che Padoan risponde in qualche modo a Bruxelles. Il ministro dell'economia dice: la spinta alla ripresa verrà proprio tagliando la TASI, quindi anche la riduzione delle tasse sulla casa può favorire la crescita dell'economia. Anzi, se l'Italia non è colata a picco nel corso della crisi, lo si deve in buona parte al fatto che moltissimi italiani, oltre il 75%, possiede un'abitazione, non pagano un affitto, hanno un reddito, hanno più reddito da spendere per i consumi e gli investimenti, e dunque, se li togliamo le tasse sulla casa, potrebbero utilizzare questi risparmi per investire di più nei consumi, mentre Bruxelles continua a ripetere la necessità di abbattere le tasse sul lavoro e alzare invece quelli sugli immobili. E Renzi dice da New York, in maniera molto secca: decidiamo noi e non dei burocrati europei. Ma casa o lavoro? Lavoro o casa? Risolve tutto e sceglie Mauro Meazza. Buongiorno Mauro, a te la scelta. Buongiorno. Ma cioè, io devo fare da arbitro tra... Sì, Renzi, sì. Dove tagli le tasse tu? Lavoro io o dovunque, casa? Dovunque. Beh, lavoro però per me e per te, insomma, non è che poi il lavoro sia così... Adesso lavoro. Lavoro. Forse, non sia così importante. Ma insomma, anche chiamarlo lavoro. Ah, dai, sì, questo intendo. Sì, chiaro. In questo senso, ma lavoro. No, vediamo, perché tra l'altro, leggendo proprio su Sole 24 Ore, qui c'è sempre da far quadrare un po' questa ipotesi di legge di stabilità, perché bisogna anche prevedere qualcosa per il Sud, come sai, sì. E poi interventi sull'IRAP, e poi c'è la spending review, quindi tutto questo mosaico che si deve comporre oramai in una quindicina di giorni. Vediamo come riusciamo a uscirne, speriamo onorevolmente. Intanto ti voglio dire però che oggi è un giorno, potresti dirlo tu, decisivo? Grazie. Sì. Per la volontà, certo. Siamo arrivati a 40.000 domande, 40.000 sì. istanze, però appunto sta scadendo il termine. E si pensa a una proroga, dovrebbe essere varato oggi il decreto legge. Vediamo allora cosa ci sarà dentro. Sai che lo aspettavamo già venerdì, poi c'è stato qualche intoppo e oggi però ci dovrebbe essere la decisione. In questo senso allora la giornata è decisiva. Grazie. Anche grazie, perché finisce molto. Settembre, quindi o decidono qualcosa o rimane la scadenza. O decidono. Vediamo, si parla di un rinvio al 30 di novembre. Vediamo se questo sarà poi confermato. Oh, naturalmente, ce l'hai la cravatta? Ah, ecco, sì. No, sì o no? Perché guarda che poi gli ascoltatori ti vedono. No, la cravatta, ecco, ho mentito. Spudoratamente. E invece noi abbiamo anche oggi la guida alle novità della riforma fiscale. Oggi parliamo di sanzioni. Quindi oggi era forse il giorno ideale per presentarsi un po' in ordine, per mettere la cravatta. Comunque trovi tutto sulle pagine di norme e tributi. Poi tu sai che oggi è martedì, quindi il condominio. Bravissimo. Le tasse sulla casa. No. Ti parliamo della APE, che non è l'insetto. No, è l'attestato di prestazione energetica che scatta da ottobre. Può essere fatto anche dal condominio. Come funziona? Te lo spieghiamo appunto sulle pagine del condominio succitate. Poi c'è una sentenza di Cassazione che mi ha un po' preoccupato, perché un signore è stato costretto a pagare dei danni per le bugie alla moglie. Allora non vorrei che questo prendesse piede, no? Nel senso che... Perché sei preoccupato? No. Tutti noi mariti, secondo me, dovremmo essere un po' preoccupati. E anche le mogli dovrebbero essere preoccupate. E anche le mogli, tutti. Se poi la cosa si estendesse. Però ti voglio dire, qui in realtà si trattava di un caso in cui un ex, poi riconciliatosi con la coniuge, era tornato dicendo che non aveva più relazioni con l'altra, e invece questo non era vero. Per questo la Cassazione lo ha condannato. Però insomma, ha condannato a chi? Non ho capito. Ha condannato il mentitore. No, ma a che cosa? Condannato a che cosa? Al pagamento dei danni, di 1000 euro. Per menzogna. È per menzogna al coniuge, quindi non so, insomma, danni, la bugia alla moglie o al marito, naturalmente. Ma leggi tutto, leggi le pagine di Norme e Tributi, te lo dico sempre, che devi leggere Norme e Tributi, che ti fa bene. Poi invece nelle pagine di Impresa puoi trovare anche l'andamento, insomma, un po' problematico del dopo Expo, sai che bisogna decidere che fare di quest'area, e ti spieghiamo che ancora le questioni sono un po' in alto mare, anche qui non è che ci sia tantissimo tempo, mentre in finanza una notizia da dita incrociate. Sì. Le banche italiane stanno meglio. Bene. Stanno meglio. Te lo spieghiamo nel dettaglio nelle pagine di Finanza e Mercati oggi sul Sole 24 Ore. Infine, io non so che macchina tu abbia, né lo voglio sapere, ma se per caso tu avessi una Volkswagen, No. Leggi religiosamente le domande e risposte per gli automobilisti che c'è da fare se avete una Volkswagen. Te lo spiega in Domande e Risposte Mario Cianflone oggi su Pagina 2. Lo farò pur non avendo. Esatto, ma fai molto bene. Perché ti parlo della Volkswagen adesso? Perché devo dire la mia abituale parola di commiato. Caro Alessandro, traffico! Alessandro Milan, a pratica della grammatica! Eccoci, allora alle 7:49 minuti, anzi 7:50 minuti, che dobbiamo dire? Beh, politicamente c'è il caso di Matteo Salvini, che è stato, possiamo dire, giudicato persona non grata in Nigeria. Aveva detto andrò in Nigeria, ma come scrive Libero è clandestino per la Nigeria, respinto. Hanno respinto il visto a Matteo Salvini, alla delegazione della Lega che voleva andare in Nigeria per che cosa? Beh, come ha detto lo stesso Salvini, avevo già fatto tutte le vaccinazioni, mi sono fatto anche 2 giorni a letto per la vaccinazione contro la febbre gialla, dimostrare che si possono aiutare gli africani a casa loro, i nigeriani a casa loro, o comunque gli africani, e non l'hanno voluto. Va bene, caso chiuso. Così come nel centrodestra si muove sempre Berlusconi, che è tornato. Oggi è il compleanno, tra l'altro, di Silvio Berlusconi, 79 anni. È il compleanno anche di Pierluigi Bersani, mi risulta. E allora auguri a entrambi, ovviamente. Le nuove mosse di Berlusconi, se no va tutto a scatafascio. Questo è il titolo di pagina 12 del Corriere della Sera. Cioè Berlusconi vuole tornare e domani tornerà a Roma per incontrare i senatori sempre più inquieti dalle fuoriuscite ormai quotidiane in direzione Verdini. E un Berlusconi che tra l'altro ha promesso il nome del sindaco, candidato sindaco per il centrodestra a Milano in settimana, e secondo il Corriere della Sera, una notizia che era già uscita, pensa, dopo il no ripetuto di Paolo Del Debbio, conduttore di Quinta Colonna, pensa all'ex sindaco di Segrate Adriano Alessandrini. Pare che la posizione della Lega sia Alessandrini chi? E vabbè, il centrodestra è alle prese dunque con questa scelta non facile certamente. Una sentenza invece è arrivata ieri, riguarda l'Italia, come raccontano tutti i giornali. È una sentenza che, come scrive Repubblica, condannati Mengozzi e Cimoli, cioè ex manager di Alitalia. L'articolo a pagina 33, Maria Elena Vincenzi: quantificare l'ammontare dello spreco rimane impossibile. Quel che è certo è che ora i responsabili di quella bancarotta per dissipazione e distrazione sono stati condannati. La storia è quella del crack all'Italia, uno dei più clamorosi casi di malagestio di fondi pubblici nella storia degli ultimi anni. Fiumi di denaro scivolati via in consulenze faraoniche, in migliaia di rivoli di spese ingiustificate tra il 2001 e il 2007. L'accusa era coraggiosa, ma i giudici della sesta sezione penale del Tribunale di Roma sono stati d'accordo con quella ricostruzione, anzi di più, hanno dato condanne superiori alle richieste. E così Giancarlo Cimoli, presidente e amministratore delegato dal maggio 2004 al febbraio 2007, è stato condannato a 8 anni e 8 mesi di reclusione. Al manager è stato attribuito anche un episodio di aggiotaggio per aver diffuso notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione dei valori del titolo all'Italia. E tra l'altro sono stati riconosciuti risarcimenti alle parti civili di 355 milioni di euro. c'è anche un racconto di Lucio Cillis dal titolo Manager Allegri, politici e sindacati voraci, un conto totale di 11 miliardi. Tra l'altro c'è questa frase che è messa all'inizio dell'articolo, fa capire il tenore e la portata di quello che succedeva in Alitalia secondo i magistrati. Alitalia, dice un sindacalista di allora, era come un frigorifero di famiglia. Chiunque ne avesse la possibilità lo apriva e prendeva qualcosa, ma senza riempirlo di nuovo. Su tutti i giornali, craca l'Italia, ex vertici condannati, fiumi di denaro pubblico buttati. Questo è il titolo, per esempio, del Giorno. Gli 8 anni, 8 mesi a Cimoli, che dovrà risarcire anche 160 milioni di euro. Va bene, siete contenti di sapere che c'è acqua su Marte? Anche se acqua salata? C'è acqua salata su Marte. Questo è l'annuncio della NASA, un annuncio scientifico molto importante, racconta Giovanni Caprara a pagina 23 del Corriere della Sera. La conferma lungo cercata è arrivata, anche se esistevano da tempo ipotesi abbastanza concrete e in parte avvalorate. Ora gli spettrometri della sonda che è su Marte, appunto sull'orbita di Marte, hanno rilevato la presenza di minerali idrati che certificherebbero lo scorrere di acqua salata in superficie nella stagione calda di Marte, soprattutto nella zona, nella fascia equatoriale. Dunque, si erano già scoperte nel 2006 sottili canalizzazioni che scendevano per un centinaio di metri, ma ora ecco la scoperta dell'acqua salata, solo però in alcune stagioni. Solo in alcune stagioni. Non ho letto niente del Senato, perché il Senato oggi è l'articolo del Messaggero, l'ennesimo retroscena oggi di Nino Bertoloni Meli, vince in questa provocazione che voglio fare il premio La Carta Costa, l'articolo più inutile sui giornali, il caos emendamenti, Grasso che non scioglie il rebus, i calderoliani, i bersaniani, i verdiniani, i renziani, basta, basta, basta. Ma chi se ne frega!